Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Ve la ricordate Lady Chat? Quella signora che ogni tanto incontro in treno che mi racconta il senso che le dà alle sue aspettative amorose, stando ogni notte china sul computer, accettando la corte di sconosciuti e rimanendo sempre, ahimè, delusa dagli incontri. Ce l'ho qui davanti. Lei ancora non si è accorta che io ci sono e la guardo come sempre, infilata con gli occhi, con l'attenzione e le dita nel suo smartphone, presa freneticamente dalla gestione multipla e contigua di rapporti che la porteranno chissà dove. Io penso che Lady Chat ormai viaggi con il navigatore satellitare inserito nel suo smartphone e a seconda di dove l'estro la porta, segue la sua deriva amorosa, tornandone sempre dietro, delusa, addolorata e scornata. Ciao cara. Ciao, come stai? Ci sono novità rispetto... Ti autocarico? Ma novità, che cosa ti interessa sapere? Vediamo. Sempre le stesse cose. Sì, lo so. Come è andata la caccia grossa? Diventare monotematica però, se andiamo avanti così. Guarda però, cerchi una persona da avere vicino sempre, perché tu sei un esempio qualificante del problema di cui stiamo parlando. Cerchi una persona da avere vicino sempre, da alzarti la mattina averlo lì, andare a letto ma averlo sì, lì. Che o mi uno... pure con le rughe, ma dai. Allora cerchi quello che una volta si chiamava un marito. Ok. Basta dirlo. Cioè, questa è una parolona. Però comunque quello dai, cerco un compagno. E però ho capito, dai, finalmente ho capito che certo quello non è un posto adatto dove trovarlo, questo marito. Quello, cioè quello sono i siti di dating. Quelli sono le chat, tremende dove una ci si tuffa armata. Sì, ma di qual è l'alternativa? E qual è l'alternativa? Non c'è. Qual è l'alternativa? Se me la proponi io sono molto ben felice di accettare i tuoi. Allora non esiste la materia prima, non esistono più uomini disponibili. No. Se sono estinti con i dinosauri, guarda, io sono sicura. Ma perché lo vedi come un rimpianto? Magari ci siamo evoluti, non lo so. A me non piace questa evoluzione, ti assicuro. Non mi raccontami piace. Le ultime storie, così vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Che poi alla fine diventa un gioco di parti, no? Perché tu mi fai una cosa a me, ok, io ne faccio non una a te, perché sono impossibilitata, però ne faccio una ad un altro. Quindi il tipo che mi contatta e dopo tre parole, ciao, come stai, sei carina, mi piace, ci vediamo stasera, cioè vengo a casa tua a prendere il caffè. Ha poco tempo a disposizione. Ma sei un cretino. E allora io che cosa ti pago con la stessa moneta? Va bene, ci vediamo stasera. Dove? In via tot al numero tot. Al campanello scrivi, leggi scritto questo. Va bene, ci vediamo più tardi, questo è il mio cellulare. Io ovviamente non gli do il mio e lui va all'appuntamento. E questo lo so perché alle 23:30 mi manda un messaggio mandandomi a quel paese. Ma sei un cretino in toto. Ma dove gli hai dato un indirizzo fasullo? Sì, il primo che mi è venuto in mente. Ma lui pensa, lui ha suonato, ha bussato, ci sono certo, qui. Certo, ma tu immagini la scena? E poi ancora più imbecille, perché almeno lasciami appesa, no? Nel dubbio che ci sarà andato o non ci sarà andato questo cretino. Invece no, c'è andato, perché sennò non mi avrebbe mandato a quel posto, no? Sì, avrei detto, guarda, ho avuto un contrattempo, non ci sono andato. Vabbè. Però poi, pan per focaccia, la stessa cosa è stata fatta a me. Perché un altro tipo di passaggio poi mi ha dato un appuntamento al quale lui non si è presentato. e cioè dura, no? Certo, è un po' una cosa come i bambini. Mi ricordo queste cose succedevano al ginnasio, che la ragazzina ti dava l'appuntamento, poi non ci veniva per farti dispetto. Poi magari questo e io ti faccio quest'altro. Sì, però scusa, sono degli sfregi fra categorie, non fra esseri umani individuali. Tu te la prendi con la categoria degli uomini allupati in cerca. Con la categoria, e loro se la prendono con la categoria delle donne. Figate, no, stupide. Poverine, no, delle donne che ancora hanno un'idea romantica, si sentono ancora in credito verso il mondo maschile e pensano che possa esistere un uomo che l'accudisca sempre, comunque, secondo vecchi sistemi. Ma non è questo che si cerca poi, non è sempre questo che si cerca. E cosa si cerca? Tu cosa cerchi? Ma in realtà poi l'uomo dall'altra parte del filo o della chat ti dà esattamente quello che stai cercando, perché io questa cosa l'ho provata con mano, perché poi mi sono inserita sul sito con un altro nick, con un'altra foto, e ho contattato la stessa persona, anzi è stato lui a contattare me, con la stessa tipologia. O meglio, ancora con altre, con altri tipi. Però scusami, cara, se vai in un sito di incontri, anche quelli che apparentemente non necessariamente c'è scritto cerca donne o uomini per una notte, è chiaro, ci sono persone che agiscono in maniera seriale, il cui passatempo è cercare altre persone. Non hanno voglia di seguire gli iter tradizionali della relazione. Conosco delle persone, le frequento, ci vediamo ogni tanto, se ci piacciamo facciamo dei passi avanti. No, hanno poco tempo, che probabilmente la loro è un'attività laterale rispetto alle loro vite. E quindi cercano persone che abbiano lo stesso tipo di problema, persone che hanno poco tempo e vogliono concludere subito. Ma non è sempre così chiaro. Io quello che vorrei farti capire è che non è sempre uno più uno due. Ma fammi un esempio, fammi un esempio. Allora, tu dicevi questo copia e incrolla. Sentiamo una settimana, 10 giorni, WhatsApp, telefonate. Quando arriviamo al dunque, che ci dobbiamo vedere, questo non si presenta. Quando siamo ad un passo dal definire la cosa. Quindi io mi chiedo, ma perché? Perché siete veramente tarati, veramente, come diceva Mina. Ma non la prendo con me, che c'entro io? Che c'entro io? Sto qui. E ti ho davanti, è normale che io me la prendo con te. Ma io sto bonino, non cerco nessuno, non mi cerca nessuno, sto così. Vedi, Mina, come diceva, semplici e un po' banali, evviva, è proprio così. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Cioè io mi vorrei tanto rivolgermi a quelle povere figlie, a quelle povere donne, e me compresa, perché anche io fino a qualche anno fa dormivo molto probabilmente con un Mr. Hyde, no? E finché stava con me tutto carino, adempiva gli obblighi matrimoniali, serali, ok, dopodiché verso le 2 di notte, opla, si trasforma, si alza, si fa una doccia e diventa Mr. Hyde. Sì, la doccia, la doccia, mi spieghi perché la doccia sta tanto sta davanti alla tastiera? Vabbè, la doccia perché magari, che ne so, si toglie la pelle, no? E ma sta davanti alla tastiera, nessuno sente se puzza o no. Ma è per lui. E poi vabbè, questo ovviamente. Quindi tu hai un marito che la notte si alzava e chattava invece che dormire. Questo non lo posso sapere, cioè io mi metto insieme a loro perché non voglio essere cioè chissà chi, non voglio essere esattamente come loro. Ma perché come questi incontri avvengono di notte? Tu alle 2 di notte ovvio, cominciano. Ovvio, questi incontri in chat avvengono di sera. Allora, lo si fa o nelle ore diurne, quando lui in ufficio, lavoro, in ufficio. Okay. Oppure, quindi c'è uno stop verso l'ora di pranzo, fino alle 21:30, 22, dopodiché le chat si animano di nuovo di questi Mr. Hyde. Ma allora, secondo me, è una dimensione parallela, secondo me. Non è gente che cerca niente, è un passatempo. Come io la notte mi metto a guardare i telefilm, una puntata dietro l'altra, che non c'ho sonno. Questi si mettono a chattare. Che ti Ma il fatto è che non stiamo cercando la stessa cosa, capito? Perché loro cercano la chattata, carino sto termine, e poi finito lì e poi prendi per il sedere chi ti sta dall'altra parte. Ma perché vogliono che poverina, gli dici foto zozze, queste cose qua chiedono? No, ma a me questa cosa finora non è mai successa. Forse perché cioè, proprio il mio dialogo non va, non sconfina. Ma cosa ti scrivono? Dimmi il testo base che ti arriva continuamente, come se fosse un testo copia e incolla. Ma dai, i complimenti relativi comunque alla foto. Quanto che sei posti, bella, vabbè. sei carina, una persona... E poi comunque, sai, noi ci dobbiamo prendere prima di testa e poi di corpo. Questa è una frase che proprio prima va di testa. Alla grande. Ah, cioè, quindi devo capire se mi certo, riuscirà a tirare quando ti vedo. Prima mi devi piacere di testa, no, una donna comunque intelligente, sveglia, perspicace, e poi in caso. Questa è una frase che prende, tocca proprio. Alle donne piace, fanno... sì, alle donne piace. Sì, dai, perché se tu mi dicessi mi piaci fisicamente, a parte vedi solo il viso, quindi non puoi... cioè, resta così, no? Resta arida. Mentre invece se mi dici no, a me piaci perché sei una persona intelligente, acculturata, bla, capirai. Vabbè, no? ed è marpione, chiaro, una donna non chiede altro che un uomo che gli dica mi prendi di testa, che non le chiede capito? Subito. Però quando succede una volta, due volte, tre volte, veramente a copia e incolla, credo proprio che ci siano dei libri, dei manuali. Dobbiamo prenderci di testa, che poi le donne si prendono veramente di testa, poverine, si appassionano. È quello il problema. Stanno è a chattare questo. Giorni e giorni, certo. Si quindi fanno delle foto carine, mi mandi il tramonto, mi mandi i dipinti che hai fatto, addirittura questo mi mandava i dipinti che aveva fatto. Un pittore, quindi, vabbè, fingeva di essere un artista. Sì, vabbè, perché, cioè, bisogna vedere pure quello, no? Si ricorda ai signori passeggeri che nella carrozza 8 è attivo il servizio di ristorazione. Però sei molto cinica, devo dire disamorata. Non credo ormai che il mondo maschile sia proprio così. Ma non ti è mai capitato una volta ci fosse un barlume che almeno pensavi che almeno due giorni, tre giorni questa persona mi fa piacere averla vicino? No, mai successo. Ma a me sì, a me sarebbe piaciuto. E poi dall'altra parte che non c'è poi il corrispettivo, perché magari spariscono improvvisamente. Dammi una percentuale, diamo su 10 chiacchieroni, quanto realmente poi sei riuscita ad avere almeno l'abbozzo di una relazione? Uno e mezzo. Beh, 1 su 10, almeno sì. È poco però. E quell'uno... Mi permetti che sono cinica? Sì, ma quell'uno, diciamo, quanto è durata? Che fino a che arriva? Quell'uno sarà durato un mese. Beh, però un mese è il tentativo di avere una storia. Ma io su quello ci sto, per carità. Infatti non è che disegno... Uno un mese può anche impegnarsi nel tentativo di costruire una storia, no? Infatti lo è stato fatto, però poi... E perché non è andata? Ma... non lo so, poi quando ci si conosce non è tutto... No, ma questo sempre, figurati. Non è tutto bello come in realtà poi possa sembrare all'inizio. Però quindi... è meglio che allora tutto accade in un mese piuttosto che accade entro 4 anni, no? Sì, o anche di più di 4. Comunque ti giuro che adesso ho proprio finito. Io non chatto più, ti giuro. E beh, che fai, diventi lesbica, scusa, dovrei continuare a cercare uomini. Ma perché, tu pensi che sia facile trovare donne? No, io so che... Io guardo, la maggior parte... dei discorsi che raccolgo sono donne che alla fine si incontrano tra amiche e dicono: ma senti, ci importa più degli uomini, stiamo fra noi, e si stabiliscono questi rapporti di tenerezza, di affetto, di solidarietà e anche di amore tra donne che mai nella vita avrebbero immaginato di dividere qualcosa del genere con una donna. Non mi ci vedo, le carezze di una donna sinceramente non mi piace relazionarmi. Ti rendi conto che sta accadendo in maniera molto importante. Lo tocco con mano, i viaggi che faccio li faccio con le mie amiche, non li faccio certo con quindi cominci a dover per forza star con donne. Sì, con le quali mi ci relaziono molto bene. Vedi, però questo, tu immagina che persone che alla fine devono decidere con chi voglio vivere assieme e c'hanno solo donne intorno, ma non è che è una scelta di orientamento, dice no, alla fine vivo con una donna, che devo fare? Ovvio strozzi. Sentirsi dire da uomo è molto triste, vuol dire che con me abbiamo fallito su tutti i fronti. Io voglio credere che ancora esista qualche eccezione che poi faccia la regola, no? E tu pensi di trovarla chattando? Assolutamente no. E allora dove andrai? Questo... Quale sarà il nuovo mare in cui getterai le tue reti? Non lo so. Io, guarda, aspettavo di incontrarti perché almeno può darsi che tu me lo potevi suggerire. Beh, puoi fare un corso di tango, un corso di danza latina, non lo so. Anche lì gli uomini non ci sono, perché a questi corsi di ballo si iscrivono esclusivamente donne. Gli uomini non lo so dove sono. Beh, ma i maestri, diciamo, che alzano. Accettare, gli uomini stanno a accettare, perché visto che non hanno il coraggio di No, ma di ci hai dato delle dritte. Un momento mi trovassi solo e disperato, andrei a fare un corso di tango, visto che non ci sono. Guarda, sicuramente i corsi, ma anche altri balli un pochino più semplici, meno impegnativi di quanto non possa essere. Senti, il corso di sommelier no? Va il molto. Corso di sommelier, sì, infatti ci stavo pensando. Anche ai corsi di cucina, sai, qualche corso di cucina che sono stata, c'erano degli uomini che magari ovviamente dovendo vivere soli si stavano imparando, certo, a mi viene uno squallore, no? Pensare che per trovarti un uomo decente ne andare a trovare un uomo che spentola e ramazza, e vabbè, però è così. Mia cara, aguzza la fantasia e sono qui in attesa spasmodica. Lo dovrò fare sicuramente. Di tu che mi porti finalmente il tuo trofeo e mi dici ho trovato l'uomo per la vita, o perlomeno l'uomo per una settimana, e quindi sono contento. Ti cercherò disperatamente. Sì, però non potrò essere io purtroppo, perché il mio errabondare per treni e per ferrovie impedisce di fermarmi con chiunque. Ciao, alla prossima. E ciao caro, buona giornata. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Oibò, che giornata fortunata. Oggi incontro in treno tutte le persone che più mi fanno divertire. Improvvisamente vedo baluginare lontanamente, entrare e uscire da una toilette, una signora in rosa. È Lady Pink. Lady Pink la rincontrai pochi giorni fa e mi raccontò un succoso palmarès di conquiste fatte, veramente questa volta concretamente. Lady Pink non è come Lady Chat. Lady Pink conclude, Lady Pink va sulla carne, Lady Pink va nel mondo materiale che tante soddisfazioni ci dette e lì raccatta. Ero rimasto sospeso dei tre grandi traguardi raggiunti e mi ero fermato al secondo. La blocco, la prendo per un braccio e le impongo di raccontarmi. Essendo io un modello scaldabagno, cioè non sono sta figa assolutamente, anzi sono piccolina, tracagnotta, vabbè. Vabbè, che vuol dire? Donna nana tutta tana. Sì, ho capito, però insomma le fighe sono un'altra cosa. Vado ad un ricevimento in questa villa meravigliosa, vicino a Portofino, con questo prato bellissimo. Accidenti al prato, avevo una scarpa con una décolleté tacco 12 stiletto che tutte le volte che camminavo mi ci infilavo dentro, non riuscivo a uscire dal prato perché ero arpionata. Vabbè, ti eri conciata bene, dai. E ero, insomma, cercavo di posizionare il prodotto sul mercato in qualche modo. Ma immagino che fosse dopo il tramonto, quindi c'era la penombra. Sì, la sera. Poi, considerando che la Gina e la Pina, nonostante l'età, reggono ancora la forza di gravità. Quindi è andata bene, dai. È andata bene. Si siede a fianco a me un bellissimo uomo, innegabile. Arrivano i fotografi, cominciano a fotografarlo. E io non guardo televisione, non guardo, cioè non sono niente, cioè non guardo la televisione, non mi interessa. Comunque si siede questo uomo molto bello, flash dei fotografi, mi giro, lo guardo, faccio: guarda, non ti illudere, non stanno fotografando te, ma stanno fotografando me. Ma così per stemperare un po' la situazione, perché tanto ero lì, non conoscevo. Ma è un VIP, uno famoso, oppure questo? Un uomo che, insomma, è stato definito qualche tempo fa uno degli uomini più belli. E quindi capisci, mi metti tanta curiosità, però. Te la tieni, caro mio ragazzo. Vabbè, più o meno quanto età aveva? Giovane? Sì, 45 anni. Beh, è giovane, è nuovo. E quindi questo bellissimo uomo, eccetera, eccetera. Insomma, non sapendo chi fosse, poi gli amici in comune che ci hanno invitato a questo party, insomma, hanno fatto le presentazioni, eccetera, eccetera, rimanevo comunque nella mia ignoranza. Poi la sfiga voleva che in quel luogo non c'era neanche tanto campo, quindi non potevo neanche andare a vedere su internet chi cacchio fosse. Googlarlo e vedere chi fosse. Esatto, giusto per farmi trovare minimamente preparata. Invece niente, sono rimasta nella mia ignoranza. Scatta quindi poi il contatto Facebook, dal quale, insomma, capisco chi è, ecco. Quindi un uomo acclamato dalle folle femminili, dove ci sono le sciampisse che si strappano i capelli per vederlo senza camicia. E vabbè, insomma, morale della favola che questo, dopo un po' di messaggi e tutto, si esprime con la seguente frase, due punti, aperte le virgolette: quando ci vediamo sciabogliamo la bottiglia. anche le mie ovaie praticamente sono cadute rovinosamente a terra e con quella vabbè che ha un doppio senso, scusa, la sciabolare, io sono capace a sciabolare la bottiglia, è bellissima. Sì, vabbè, ok, ma un uomo che mi dice ci vediamo e sciaboliamo una bottiglia, ma è una maniera di stapparla, tu la metti con la saldatura perpendicolare al tuo pollice, deve essere ben ghiacciata, poi con la sciabola pian piano lisci il collo un pochino, è una botta secca, stappa parte il collo della bottiglia con il tappo e c'è questa sorta di schiuma bianca che rompe, schizza, bellissimo. Sì, che c'entrano le ovaie con questo, una maniera di porgere il vino, è una maniera molto cafone di invitare una persona a bere un bicchiere di vino, dici stappiamo la bottiglia, ma sciabogliamo la bottiglia, io con quella sciabola gli avrei tagliato veramente vabbè, la testa. Vuol fare il figo, perché ci vuole una certa pratica farlo, non è facilissimo. Appunto, ma siccome sono abbastanza concreta nella mia vita e non ho bisogno di gente che mi butta fumo negli occhi, chi se ne frega della sciabolata? Ah, pensavo, scusa, avevo capito, cadute l'ovaglia nel senso non che ti eri eccitata, poi cascate le palle, diciamo così. Bravo, esatto, non avevo capito. Sono cascate, perché proprio veramente l'ho trovato... Sai che cosa? La sicurezza di essere un uomo, la sicurezza di essere acclamato dalle folle, la sicurezza di essere quello che è, pensava che tutto fosse lecito, tutto fosse ma invece no, Lady Pink gli ha dato il 2 di picchi. Ma ci sei andata te con lui? No, no, gliel'ho proprio detto. Ho detto, no, guarda sciabolatela da solo. Esatto, e questo ti posso garantire che non capisci, poi è un segno abbastanza focoso e non ha accettato il mio no, e questa cosa mi diverte un sacco, e soprattutto alla faccia di tutte le sciampiste, con tutto il rispetto per le sciampiste, però insomma il senso l'avete capito, che comunque farebbero qualsiasi cosa per una sciabolata con lui, io gli ho detto di no. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Questa è la tipica chiacchierata, e poi quando ci ascoltano mi scrivono: sei un morboso, scegli sempre argomenti morbosi e ti piace compiacerti e con queste sei un è stata morbosa questa chiacchierata. No, purtroppo è scientifica, è la verità. È scientifica. Io faccio il mio mestiere, stiamo parlando di tre uomini che sono proposti su diversi piani, un piano matrimoniale, un piano di paternità e un piano di amante, e giustamente una donna che è il bersaglio di tutte queste aspirazioni me lo racconta e devo chiedere di particolare, adesso un quadro preciso. È stata un'estate appagante, tu devi essere felice comunque, anche se non farai nulla, felice. Sei stata considerata da tre uomini che magari non valgono una mazza, però con tre diverse possibilità di applicazione, può essere mamma, può essere sposa e può essere amante, che vuoi di più dalla vita? Dipende dall'applicazione che uno scarica. Ma adesso niente, basta, ormai finì con questi tre, non farà mai più nulla. Ma non lo so, vediamo. Adesso mi diverto tanto, comunque mi diverto. Ma quindi stai facendo la profumiera con tutti e tre? Certo, certo, assolutamente, e mi diverto veramente tanto. E soprattutto tasti, no? Quali sono i limiti e le virtù anche di certi... Beh, senti, l'importante è che trovare maniere proficue per impiegare il proprio tempo, perché il tempo del tedio è il tempo che ci logora, e il tempo che attivamente noi impieghiamo in attività creative come quella di far stare appesi al tuo profumo tre uomini mi sembra il tempo usato in maniera migliore. Però io devo scendere, perché sennò anch'io resto appeso al tuo profumo, e un quarto uomo in questa tua collezione proprio non avrebbe modo di esserci. Ciao. Ciao. Ed eccomi al terzo incontro. Giornata succosa oggi, bottino ricco mi ci ficco. Però vedo la ragazza con la chitarra assorta seguire il filo dei suoi pensieri, frastagliati, sparpagliati, maledetti e maltrattati dal passaggio continuo delle rotaie. Mi verrebbe di domandarle cosa l'affligge, quale profondo dolore, quale rovello nella sua giovane anima la fa così soffrire, la tiene così lontana dal consesso umano. Ma rispetto il suo silenzio, rispetto il suo desiderio di starsene da parte, e quindi passo dietro in punta di piedi senza che lei mi veda. Mamma mia, ma questo treno si ferma ogni 5 minuti. Vabbè che non ho tutta questa voglia di arrivare a casa, eh? Ancora non ci credo. Sono veramente partita, sono veramente arrivata su quell'isola e tutto il resto. E pensare che non volevo neanche andare, ma ti pare normale? Uno passa tutta l'estate a lavorare e poi quando arriva il momento di partire pensi: no, sono troppo stanca anche per andare lì. Che mani abbronzate che ho. Lì mi sembravo bianca. Beh, forse perché eravamo tutti abbronzati. Tutte tranne le cinesi, ovviamente. E che qui mi sembrano tutti un po' tristi, annoiati, già stanchi. Ridatemi il mare, vi prego, almeno ridatemi un bel piatto di quegli involtini di riso fatti con le foglie, com'è che si chiamavano? O almeno un drink, ridatemi quel drink. Ma forse se lo bevo qua mi fa schifo. Vabbè, ora non ricominciamo con la solita scena drammatica. Dai, pensiamo positivo. Ai momenti belli che ho vissuto, alle risate con le mie amiche, a tutti i ragazzi del posto che mi hanno detto I love you, take the key of my heart. Oddio, ecco che ricominci. Ma non è colpa mia, è che appena guardo fuori vedo questo cielo grigio, cartelli stradali, traffico. A me solo la parola metropolitana mi fa salire l'angoscia. Ecco, devo affrontare il ritorno così, pensando che nonostante questo cielo grigio, nonostante la routine che mi cascherà addosso domani, nonostante tutto ciò, ho tanti bei ricordi. E ho ancora la voglia di ridere come uno scemo. Beh, la verità è che la cosa consolante di tornare è... Boh... Domani mi verrà in mente. Ma sì, domani. Domani tutto questo viaggio mi sarà utile. Forse no. Dopotutto, sono stata in vacanza. Il treno va. A differenza di quanto più volte vi ho detto, sono entrato nella parte. Scrivetemi, raccontatemi tutto. Sono diventato bravissimo, sono presuntuoso, risolvo ogni problema, sono pronto a rispondervi su ogni questione amorosa. Non c'è nulla sulla quale io non potrei dirvi la mia. Perché? Perché ho vissuto, confesso che ho vissuto, tante ne ho viste, tante ne ho sofferte. Il mio animo macilento e macerato può essere per voi la tavola della legge, quindi scrivetemi, vedrete da quello che io dirò trarrete delle improbabili maniere per risolvere anche i vostri problemi. Cosa che ha fatto saggiamente l'ascoltatore che mi aveva sentito la settimana precedente rispondere a una signora che mi elencava, in maniera anche piuttosto banale però efficace, quelli che sono i sintomi della fine di un amore. Quando comincio a vedere nei gesti quotidiani un po' di sbadatezza, un po' di sregolatezza, un po' di trascuratezza, capisco che l'amore è finito. Io l'amore che finisce lo capisco quando la persona con la quale stai in intimo connubio ti accorgi che pensa qualcos'altro e ti dice hai finito. Lì è finito sicuramente un amore, però evidentemente ci sono delle fasi e dei preamboli precedenti che la mia insensibilità non coglie, e questo signore mi richiama all'ordine con la sua esperienza di vita. Caro Gianluca, sono un ascoltatore che segue con piacere le tue chiacchierate in treno e devo dire che spesso mi piacerebbe essere lì sul vagone. Vorrei dire la mia sulle tue discussioni con le donne, ma non potendo farlo a voce, lo faccio qui. In particolare vorrei dire la mia sull'ultima tua risposta alla lettera di un'ascoltatrice di domenica scorsa. Lei ti aveva raccontato della fine di un amore che si era materializzato in un gesto del suo compagno, la tazzina del caffè usata, abbandonata con la totale indifferenza nei confronti di chi l'avrebbe poi lavata. La tua risposta, se posso provare a sintetizzarla, è quella improntata a una spiegazione biologica, direi. Maschio e femmina si attraggono per la forza della pulsione vitale che deve dare luogo alla procreazione. Passato il periodo dell'estro, dal punto di vista animale, non ci sarebbe più motivo per stare insieme. Ed ecco che finisce l'incanto del magico inizio in cui tutto sembrava funzionasse a meraviglia: l'intesa, il sesso. Emergono le diversità, le incompatibilità. E la convivenza a lungo andare appare come una gabbia. Bene, ho passato anch'io storie con questa parabola. Come tutti, mi ero innamorato, anzi, ci eravamo innamorati e sposati. Poi, per motivi non troppo dissimili da quelli della tua ascoltatrice, dopo 4 anni ci siamo separati e poi abbiamo divorziato. Bene, ti scrivo perché tra un mese mi risposo. Sì, da cinquantenne ci riprovo. Perché? Non dovrei essere ormai io uno dei tanti disillusi che vedono le relazioni umane con quel pragmatismo dell'esperienza accumulata, per non dire pessimismo della ragione? Non penso di essere così ingenuo da credere nell'amore come un quindicenne. Eppure ci voglio provare, per un solo semplice motivo. Mi sono innamorato di nuovo, dopo anni. Cosa dovrei fare se no? Prendo atto della lezione. Questo signore mi dice che al termine di un suo amore, che ha avuto il coraggio di porre nel dominio delle cose passate, ne comincia uno nuovo e lo ricomincia nella stessa identica liturgia del primo, mi pare, perché questa nuova innamorata lui sta per sposarsela. Buon per lui. Certo, potrei anche non sposarmi, ma a parte questo, dovrei dire: scusa cara, ti amo, ma sai com'è? Magari tra 2 anni forse non lo sarò più. E forse neanche tu lo sarai più. Quindi, ciao, arrivederci e grazie. Non partiamo insieme, non facciamo sesso, niente di niente, perché un giorno potrebbe finire. Ha davvero senso dirsi e dire questo? Se uno ragionasse sempre così, non farebbe più niente. E non parlo solo di amore. Sono tra quelli che pensano che le cose belle vanno vissute anche se forse un giorno finiranno. E non saranno state meno belle per questo motivo. Anche la vita allora non varrebbe la pena di viverla, visto che poi sappiamo che si muore. Ma com'era il titolo di quel film? L'amore è eterno finché dura. Ecco, io voglio continuare a nutrirmi di passeggere illusioni di eternità. L'importante è capirsi. Il termine amore non è un termine assoluto. Ognuno lo interpreta a modo suo. C'è quello che ti dice mi ami o non mi ami, non mi ami perché non vuoi magari, che ne so, farmi felice, quando il farla felice o il farlo felice significa anche mettere a repentaglio la propria felicità, significa fare una sorta di travaso, la mia infelicità entra nel tuo cuoricino delizioso e tu sarai felice, ma che te ne fai vicino poi di uno straccio di uomo infelice? Beh, e questo signore ha risolto il problema. Lui ha un format, il format è: prendo, mi innamoro, ci vogliamo bene, ci promettiamo amore per tutta la vita, pur sapendo che è un'illusione, che non sarà per tutta la vita, e quindi cerchiamo il suggello civile che la società degli uomini pone, o il suggello religioso, all'amore per essere consacrato, quindi ci sposiamo. E quindi questo signore mi dice: vedi quanto sono bravo, io so che l'amore è caduco, so che l'amore è transeunte, eppure mi risposo un'altra donna, vedi come sono ardito ed eroico, bravo, questa è la tua formula. Se per te il matrimonio è il condimento necessario e indispensabile ad ogni amore, fai bene. Ci sono quelli che si mettono i lacciuoli di cuoio, quelli che si frustano, quelli che si mettono i fiocchi, quelli che si fanno le gare, ci sono quelli che si sposano. Ognuno è giusto che trovi l'attizzamento a lui più congeniale. Avete ascoltato Il treno va, conversazioni in viaggio con Gianluca Nicoletti, a cura di Fabrizio Intonti, sound design Luigi Speciale.